And then you're right. Runtime Radio, la talk radio geek, vi dà il benvenuto. Runtime Radio presenta. Ecco, mi è sembrata la sigla assolutamente più appropriata della storia di OGM. Ladies and gentlemen, benvenuti su Old Games Italia. Non è vero, così, su OGM. Tanto vi riportavo una cosa così dal passato. Benvenuti a questa puntata evento, oserei dire, di Old Games Italia, serie di OGM. Con me c'è Marco Gualdi. Ciao, non era Old Gay Italia? No, dai, non cominciamo con le cose politicamente scorrette. Non è scorrette. Scorrette. E abbiamo anche Walter Sbano. Ragazzi, come disse Giuseppe Garibaldi, prima di prendere le mazzate a Mentana, qui oggi o si fa la merda o si muore. Oppure, come disse la vacca al mulo, anche oggi ti puzza il culo. Esatto, sì. Carmine Puccio Console. Ah, ragazzi, io sto facendo praticamente la cura detox dagli allucinogeni che credo di aver assunto, perché francamente ho visto roba che è stata dura, ma ce l'abbiamo fatta per voi. Esatto, la nostra ricerca, il nostro studio antropologico per vedere dove arriva l'uomo e può arrivare, la sopportazione dell'uomo. Francesco Lobi Frontali. Disse il mulo alla vacca. Ho già fatto la cacca. Ha visto la cacca. Esatto, bravo, sì, bravo. Madonna, sì. Che poeta, ragazzi, che incredibile. C'è del poetismo. Che incredibile poeta, ragazzi. Insomma, perché puntata evento? Puntata evento perché voi state a vedere Sanremo e noi stiamo a fare qua i stronzi, insomma. Portacci vostri. Diciamoci la verità, però, insomma, noi ce ne fottiamo. Lo vedrei volentieri anch'io Sanremo. Siamo. Ti piace? Ti piace Sanremo? Vuoi andare a vederlo? Puttana, no, però piuttosto sì, cioè piuttosto di aver visto quello che hai visto per recuperarmi. Esatto. Perché vabbè, ho saputo. Ormai l'hai fatto, Francesco, ormai non te lo puoi. È come il vaccino, l'hai fatto, corne. Non puoi toglierti. No, io ho visto persone che andavano in giro con i ferri della lana piantati negli occhi. Quindi, insomma, perché. No, io spero nell'Alzheimer a questo punto. Dai, spero di avere qualcosa che ti faccia dimenticare. Ragazzi, sì. Perché poi facciamo una piccola introduzione, appunto. Poi cerchiamo di andare invece con un ordine logico su quello che vogliamo dire. Perché oggi mettiamo un po' da parte, perlomeno. Parzialmente i social media, perché parliamo di un social. Per ritornare sui social media, perché esatto, tutto da quello. Esatto, perché poi in realtà c'è comunque una connessione, no, da questo punto di vista, perché ne avevamo parlato qualche anno fa, avevamo avuto l'accenno del fatto dell'esistenza di questo film, non abbiamo avuto l'opportunità di vederlo, a un certo punto era diventato un mistero, pure il web se ne è occupato di questo film. Dobby in particolare. Ma dov'è finito? Cos'è successo? I poteri forti? E alla fine ci ha pensato Prime Video, Amazon, che ci ha fatto un regalo, perché dai, tutto sommato ci ha fatto un regalo, perché alla fine potevamo, la prossima volta un pigiama va meglio. Però potevamo arrivare fra 40-50 anni da adesso, vecchi e malati sul letto di morte, a dire cazzo non l'abbiamo visto. Cioè avremmo potuto avere dei rimpianti, diciamo, insomma, delle cose che. Sei stato un buon uomo, no, ma non mi frega niente. Hai lasciato una buona eredità di te nel mondo. No, però non me ne frega. Cioè, qual è il tuo cruccio? Quando Gesù Cristo ti verrà a chiedere: ma tu che cosa hai fatto per meritarti il paradiso? Ho visto. No, lì glielo devo dire o non glielo devo dire che ho visto quella cosa lì. Capito? Cioè, dove lui muore, poi tra l'altro. Dico, in ogni caso. Facciamo spoiler: lui muore, ragazzi. È importante. Gesù Cristo muore. Tra l'altro, ragazzi, sono andato a vedere nei credits chi l'ha interpretato Gesù Cristo. Lo sappiamo bene, Zaia. Per Giuseppe Zaia. Porca puttana. Di persona, voglio dire. Un po'. Sì. Per un attimo ho sperato che fossero veri chiodi. Cioè, se vedi nei credits ha fatto tutta la musica, la regia, sceneggiatura. Sì, anche grazie al cazzo, diciamo. Comunque, vabbè. Allora, ragazzi, presentiamo. Abbiamo visto Creator the Past, il più grande colossal sci-fi italiano di sempre, perché così fu presentato. Figuratevi gli altri. No, non è vero, perché invece noi abbiamo prodotto della bella fantascienza nel passato, Sì, remoto, sì. Sì, nel remoto, è vero, però insomma l'abbiamo fatto. Con tutti questi soldi, era più di 10 milioni di euro. Di sbleuri, il budget, pare. Qui no, sei di William Shatner. Ah no, ma che 10 milioni di dollari? Sì. Ah no, non c'è. Mi devono far vedere i documenti proprio. Cioè, voglio vedere proprio le cose del commercialista. Che... Sì. Comunque, Creator the Past, questo film che a noi ci aveva attirato inizialmente l'attenzione, per anche in senso ironico, perché c'era William Shatner. Diceva, vabbè, William Shatner. Poi, quando abbiamo visto un po' il trailer, eravamo già subdorato. Perché io quando vidi il trailer lo vidi una volta sola, ragazzi, poi lo sentivo sull'applicazione Alexa The Coming Soon, che quella mattina mi dice tutte le cose e mi faceva sentire questo trailer, Creator the Past. Alla fine, già dal trailer tu avevi già subdorato di che cosa stavamo parlando, ossia un film che non è che raccontava una storia di fantascienza, è un'operazione propagandistico-complottistica di quelle di un livello becero incredibile, no? Però adesso io vi chiedo a voi, perché prima di tutto la cosa più importante, voglio sapere, a partire da Gualdi, anche se è pericoloso che parte Gualdi, lo dico subito. Ah, poi dopo Francesco, Walter, fate le varie integrazioni, perché penso che ognuno di noi ha capito una cosa diversa, poi magari. Questo film Creator the Past, Gualdi, di che cosa parla? Cosa racconta di preciso? Perché io ti devo dire la verità, non lo so, cioè non l'ho capito, cioè ho capito nel senso in generale, no? Però butta lì 50 milioni di cose, che veramente penso che... Allora, il senso didascale che proprio all'odimo, cioè c'hanno pure i soldi per farlo vedere, però tutto, cioè tutta roba, No, ma poi il quantitativo di spiegoni inutili che ci sono, ma quello è il dilettantismo, cioè quello è il dilettantismo, ma anche inutili, del tipo quando fanno vedere la ragazza legata al letto, quella che ha subito le abduction. La ragazza legata al letto. Lo stai vedendo. Esatto. Lo vai Marco, di che parla? Di che parla sto film? Cerca di stringere, No, ma io stringo. Aspettate, vi faccio parlare. Di che parlava sto film? Dimmi. No, non lo so, l'ho già rimosso. Buonasera a tutti. Buonasera. Io velocemente volevo solo dire una cosa. Prego. Ovvero che non perdonerò mai e poi mai Francesco. È vero. Di avermi proposto questo film. Lo so. Sei incuriosita pure tu, ha detto sì, vedivo. No, non è vero. Sì, io... sì. Ma la cosa bella, dopo 20 minuti netti, dopo 20 minuti netti di film, tu cosa hai fatto? Che ti è successo? Boh. Come che ti è successo? Boh. Ti sei addormentata. Ah, ragazzi, no, mi è venuto un mal di stomaco pazzesco. Ah, dalla rabbia. Sì, non era stomaco, era più in basso, perché poi che sei andata a fare? A cagare. Ah, vabbè. Ha fatto sì quella. Ha fatto il secondo film. Ha fatto sì quella. Fantastico. Vabbè. Cioè, incredibile davvero. Cioè, dopo 20 minuti netti di punto in bianco. Ma quello è nervoso, Però è normale, infatti. Però ti devo dire una cosa, Ruth, questo tuo disprezzo per l'antropologia non è giustificato. Infatti, lo studio va approfondito. C'è pure lei nei gruppi complottisti, a volte mi suggerisce lei. A posto, vabbè. Sì, belli stiamo. Allora, riprendiamo l'ordine della cosa. Gualdi, finalmente ce la facciamo. Di che cazzo parla? Allora parla di otto persone che hanno otto pianeti, uno c'è il suo. Il Consiglio Galattico. Non so se uno si è consigliato. È un consiglio galattico, si chiama. No, io non so. Qualcuno se è consigliato. Non so se è un buon consiglio o un cattivo consiglio. Non lo so, però, ma poi ognuno c'ha sta palla. Okay. C'è una palla, cioè qui c'è sta tutto il segreto della palla della vita del mio pianeta. Okay. Ah, ma che bello! Bravi. Infatti, è un po' al cinema la palla, no? Esatto. Poi a un certo punto uno fa delle cose che non dovrebbe fare. Delle cose. Ma un po' di... Cioè, no, non vuoi spoilerare? No. No, spoiler, che cazzo no, te ne no, frega? No, io non è che non voglio spoilerare, è che non... fa delle cose. C'è poco da spoilerare. Fa delle cose e gli altri sette, già, mannaggio, hai fatto queste cose. No, questo è esatto, sei andato contro la legge del primo ordine. Hai fatto queste cose, che tu dicevi, ma perché noi dici queste cose? Che non ci fa paura lo spoiler. Cose, tra l'altro. No, è che non ho capito quale. Comunque, vabbè, fa delle cose. Ok. E a un certo punto c'è un dottorino che vede una che sta praticamente legata a, come si dice, no, a quella ci arriva dopo. Ah no, la vede davvero, è vero, no, la vede dal monitor di sicurezza a caso, poi a completamente caso. A caso quella cosa. Vabbè. E poi dopo c'è questo l'amico suo che non si sa che vede, ah, per, vede per, Gesù poi, Cristo perché poi vivono insieme, perché quelli, non lo so, però questo praticamente arriva a un certo punto al coso di Ivrea, al sì, carnevale di Ivrea, sì, prende una pallata in faccia. La cosa bella, come dice pure il video di Yotobi, l'hanno dovuto ogni volta che girava quelle cose non gli piaceva, quindi ritornava l'anno dopo per 4 anni di consecutivi, è ritornato al carnevale. Pensa quello quanto gli stava sul cazzo per tirargli 4 volte 8 volte le cose in faccia. Vabbè, comunque in ogni caso va a questo carnevale di Ivrea, dove questo qui che ha fatto le cose male nasconde la palla, prima facendola sembrare bellissima questa cosa, un arancio che viene tirata in faccia al dottorino, e il dottorino dice: oh, guarda la palla, la porta a casa. No, lui dice: ma che mano di lato che mi hanno sfasciato la faccia? Sarà una cosa aliena. Esatto. Cioè, cioè, non è un'arancia messa nel freezer come no, fanno i Ivrea per fare gli scherzi. No, è un oggetto. È un oggetto culto, alieno. Alieno, alieno. Poi va a casa, a un certo punto lui si ripensa sempre a sta femmina che sta legata a 4 dei bastoni. Cioè, tutto sommato sta legata, sta a 4 dei bastoni. Quindi lui esce di casa. Esce, questo, nonostante che il suo amico l'aveva fatto ubriacare, magari esatto, per stuprarlo la notte. Ma sicuramente, però il suo amico che cosa fa? Sì, non si è capito che cazzo, perché. Che no, no, no, ma niente, cioè, si capisce, niente si capisce. Che forse il suo amico era quello che diceva devi avere fede. Esatto. Non lo so. Vabbè, sì, comunque vabbè, comunque non caso, no, tu predi, accende la palla. No, lui era il prete. Accende la palla, perché sì, la palla si accende. Esatto. E fa vedere la storia cinema, di Gesù Cristo. Cinema, esatto. E su sta storia di Gesù Cristo rimane folgorato. Oddio, oddio, è rimane morto Gesù Cristo. Ma non solo è morto Gesù Cristo, ma Gesù Cristo lo hanno creato gli alieni. Tutto semplice. Non è tanto che l'hanno creato e gli alieni. La tizia con la blackface dice: vieni con me, esatto, poi esatto, vieni con che ti faccio ingravidare un'altra a casa. Esatto, esatto. Ragazzi, in mezzo c'è un videogioco con un bambino. Ah sì, no, ah sì, sì, è vero, è vero. Cioè, ma quello secondo me era l'operazione marketing, perché secondo me qualcuno l'aveva sviluppato il videogioco, capito? Cioè... Con 3 skin. Esatto. Vabbè, comunque sì, esatto, perché poi... erano davvero 2 animazioni. Vabbè, quindi Waldi? Vabbè, comunque non quindi caso, questo, quello, però libera... questo si sveglia la notte per prendere la moto, ma andare libera questa così completamente che la fregna, a caso, la... mentre che quell'altro rimane folgorato davanti al Oddio, cinema. Gesù Cristo, così Gesù e vanno a dormire in un bed and breakfast a caso senza prenotare, senza pagare, non c'è nessuno, e scoprono chiaramente, esatto, e da lì la bellissima immagine, scusatemi, perfetta, scusatemi, meravigliosa, da appena uscita dal dungeon ma lì però lo spiega, quella è l'unica cosa che spiega, no? scusatemi. Però mi avete interrotto la parte più bella, ah, scusa, e artismica, però te devi sbrigare, devi e la parte più bella e artismica di tutto quanto film, cioè di quando loro trombano nella doccia e improvvisamente c'è lo squirting dentro la ciotola da farmi da bambino. Vero, lì c'era. Che c'è questa transizione lì, naturale, transizione, naturale, esatto, quella è una metafora, è della... metafora dello squirti, esatto. Vabbè, in ogni caso e il bambino beve, diventa supereroe, va nel videogioco, fa un casino, morono tutti e vaffanculo, va a ammazzare il fratello che lui non sa che è il fratello, e muore pure lui, e muore pure lui che è Gesù Cristo, perché lui è figlio di Gesù Cristo, lui è la discendenza di Gesù Cristo, ma proprio figlio, proprio lui. Ah, quindi ammazza e c'ha 2000 anni, no, ragazzi. Ma però la cosa, aspetta, che la cosa bella è che la prima volta che la tizia usa i poteri è per aprire la porta automatica che sarebbe comunque aperta. Cioè... Ma questo lo dice lei che si sarebbe aperta, insomma, secondo me non si sarebbe aperta. Comunque, raga, io quando ho detto no, non lo so, e quando fa vedere per la prima volta il castello, esce la didascalia, il castello dei potenti, di una delle cose più cringe della mia vita, ragazzi. Ah, no, perché tra l'altro una cosa che noi non abbiamo detto è che se c'è il consiglio galattico di questi pianeti che hanno deciso loro il destino di tutti quanti i mondi, perché non so se poi alla fine sono loro i progenitori, loro, esatto, quelli là loro, che poi hanno portato la vita nei vari pianeti e hanno indirizzato, diciamo, perché poi questo film, adesso ve lo dico, è doppio carpiato complottista, cioè prima ce l'ha con gli alieni perché che ci hanno condizionato e hanno e ci imprigionano nella loro volontà, nella storia, e poi ce l'hanno con i potenti, quindi questa che però sono queste persone, le pandemie che poi sì, a un certo punto esatto c'è tutto, cioè tutto c'è, poi tutto mischiato e messo male, perché poi c'è sta questa loggia di persone vestite di nero che so praticamente con gli occhi neri, pure con gli occhi neri, che non, pure questa è una cosa che vabbè, comunque, e che praticamente controllano, vabbè, raga, cioè Se vedevo dire la verità. Poi c'è il maestro della fede, oh. C'è il maestro della fede, che è un prete a caso. Che è Gerard Depardieu, tra l'altro. Gerard Depardieu, che tra l'altro il maestro della fede, con la scollatura. Che sapete, la leggenda, anzi la leggenda, si dice che Gerard Depardieu, dato che non vuole essere inquadrato in figura intera, pesa 2000 kg. Praticamente, perché non è, perché c'ha il culone gigantesco, praticamente lui recita senza pantaloni. Proprio per obbligare, ma questa pare che sia una cosa vera, io mo lo so, per obbligare praticamente chi fa le riprese di non fare mai, anche se è da contratto, lui comunque lo scrive, però non si sa mai, questi mi dovessero riprendere, praticamente lui praticamente recita in mutande, quindi tutto vestito preciso sopra, tutto giacca, cravatta, roba del genere, sotto senza un cazzo, però è così. È deve essere Depardieu. Divertente fare un film con Gerard Depardieu. Gerard Depardieu, esatto. Vabbè, comunque, regà, adesso passiamo a Walter, che anche lui è stato un po' in silenzio in questo momento, così lo chiedo anche a lui cosa ha capito. Sta rivivendo il trauma. Non parla perché sì, sta lì impiccato. Sta lì in un angoletto, capito? No, perché non stiamo parlando? Praticamente anche Walter ci dirà cosa ha. Perché io veramente, raga, cioè, c'è talmente tanta roba. Poi dopo andiamo anche all'aspetto cinematografico e anche tecnico, no? Quindi rimaniamo solo sull'aspetto della trama. C'è talmente tanta roba che non, cioè, alla fine veramente non. Comunque, ma difatti doveva essere il primo film di una trilogia. Di una trilogia. Comunque, trilogia, che grazie a Dio. E The Future doveva essere. Grazie a Dio non ci sono stati. Quindi Walter. È fatto pure da un libro, quindi. Ah, questo lo prendiamo dopo. Mo ci arriviamo a sta cosa. Perché solo una precisazione, Pizzo. Prego, prego. Non, dai. Poi a Walter. Non parliamo della trama, ma della trauma. In questo della trauma, caso, esatto. Sì, ma la trauma di tutti, non di chi l'ha visto, pure di chi l'ha girato, di chi l'ha scritto in particolare. È quella cosa più importante. Vai, Walter. Sono stati traumati parecchio da bambini. Scusate. Intanto volevo dire che questo inizio di puntata potrebbe sembrare caotico e confusionario, ma è che ci siamo adattati alla tipologia di regia e di montaggio. Molto più lineare. Anzi, noi ci stiamo provando a dare un ordine alla cosa, non è possibile. No, ragazzi, ma è tipo Tarantino, non avete presente il montaggio analogico? No, allora, non mi devi far cazzare subito. Cioè, non so, paragoni che se vanno fa. Cioè, io posso capire che fai il paragone col montaggio di Uwe Boll, allora lo posso pure capire, ma no con Tarantino, scusate. Ma secondo me se Tarantino vede sto film lo rigira lui in persona perché vorrebbe capirci qualcosa, quindi... Aspetta, scusa, mi dai la sceneggiatura che me la leggo, forse non rifaccio. Però ci metto più sangue, no, secondo scusate, me però ragazzi, io c'ho una sì, però sta a parlare proprio... Walter comunque, io voglio dire, insomma. Allora, allora io ci ho capito questo del film, ci sono 8 sfere del drago, eh sì, più o meno, sì, più o meno. Esatto, c'è un tizio che è tipo Goku senza coda, che deve trovare tutte le 8 sfere del drago, esprimere un desiderio e scoparsi la protagonista. Credo sia così. Beh, guarda, non è che gli ha detto così bene, tutto insomma, io mi farei i cazzi miei, insomma. Ah, la protagonista, però quale? Aspetta, l'eroina o la madre del nel film, non è che poi. Ah, ok. Insomma, effettivamente. Vabbè, dai, quella si potrebbe anche fare. Insomma, sì, no, poi Blackface, che poi spiegheremo chi è e perché. Ovviamente sta. No, il perché non lo sappiamo e non lo vogliamo sapere. Però sappiamo chi è. Cioè, però il perché è tutto nella sua testa. Sapendo chi è a livello di produzione, sappiamo anche che. È l'oggetto inarrivabile, il desiderio sessuale che nessuno potrà mai di se stessa compiere. Soprattutto di se stessa. Io però c'è una cosa che non ho capito. Però dai. Cioè, secondo me Walter te ma il dottorino, no? Ma alla fine muore. Allora, innanzitutto non è il dottorino, ma è Elnor. Oh, cazzo, come mi Elnor. Quello di Picard. L'elfo romulano. Guarda, che l'elfo romulano gli dà, è lui, gli dà una pista, cioè gli dà una recitazione, anche stando fermo, facendo quello senza. Gli dà comunque certo, una pista. Vabbè, certo. Allora, però, morto, Luca no. Ci domanda se schissà, dice, se ha battuto Alex L'Ariete come incassi. Ma io credo di sì. Sì, Alex L'Ariete abbia avuto una distribuzione più capillare, perché comunque l'ha distribuito Cecchi Gori. Questo due soldi l'ha fatto. Il problema è che questo film ha dal suo vantaggio il fatto che, essendo stato sponsorizzato e finanziato dagli ambienti complottisti, chiaramente almeno una parte di quella schiera dei fan almeno sono andati a vederlo al cinema. Poi non ci hanno capito un cazzo, ma va bene lo stesso. Alcuni di loro hanno smesso di essere complottisti. Però io ho detto, non mi avete risposto. Sono troppe puttane. Non mi avete risposto. Questo è un complotto. Esatto. Non mi avete risposto perché io non so se ancora il dottorino è vivo o morto alla fine del film. Allora, Marco, il film finisce con un cliffhanger. Sì, vuoi sapere? Cascano tutti nella lava. Esatto. No, poi lei diventa luce viola. Sì, ma lei diventa lei. Luce Viola, cioè, quindi lui, noi infatti, non sappiamo se lei si porta dietro pure lui o se sarà la sua lei, perché in un solo corpo, essendo un film di una trilogia che immagino e prego il Signore Dio, se esiste, che non verrà mai realizzata. Perché poi c'è anche, perché noi siamo i poteri forti, perché c'è anche il post credit, capito? La fanbase si scatenerà e chiederà a gran voce il seguito, no? Noi compresi? No, però c'è la cosa bella, è che c'è il post credit, quindi c'è la scena finale che ti fa capire che c'è un seguito, ma l'avremmo, cioè, nel senso, ma nelle intenzioni dell'epoca c'era sicuramente. Sì, sì, no, ripeto, infatti, dovrebbe essere una trilogia, perché se esordisci con un The Past mi stai facendo capire che vuoi farne tre. Purtroppo i soldi per il seguito li hanno spesi per animare il monocolo di William Shatner. può darsi. William Shatner, poi ci arriviamo, perché anche la parte tecnica ci arriviamo, che non si è mai mosso di casa poi, cioè sono andati lì. Ma anche Giancarlo Giannini che doppia. Vabbè, allora pure Luca Ward, se è per Luca questo. Ward. C'è di tutto. Secondo me è più grave Giancarlo Giannini, come. Per me sono gravi in egual miniera, dai, stasera ce l'ho. Sì, come dovrebbero andarci. In egual miniera, che dove dovrebbero andare entrambi, perché insomma, tutto sommato. Vabbè, quindi abbiamo capito. Ma come diceva il maestro Serpentieri, gli occhi del cuore è il mutuo. È il mutuo. Stessa cosa che ho pensato pure io tutto il tempo. Cioè. È il mutuo, sì, perché secondo me poi, cioè lì, secondo me hanno trovato anche un compromesso. Cioè, nel senso, i soldi te li diamo, però un po' di meno. Vabbè, allora io mo registro a casa, vedere. Capito? Perché poi, sai, queste cose. Comunque, allora. Poi no, poi arriviamo anche agli aspetti tecnici. Cioè, frutto di un ricatto che di un compromesso. Puccio, di la tua, che sempre dal punto di vista narrativo. Cioè, nel senso. No, io principalmente ho due grandissimi dubbi. Il primo, perché tutti e otto gli occulti super sovrani dell'universo devono fare per forza il colpo delle ali della Fenice dei Cavalieri dello Zodiaco. No, allora sì, ma lo vedi, perché però. Io quella cosa non l'ho capito. No, ma non solo. Nella prima conversazione con l'eretico, cioè nel senso, no, col tizio, quello lì, quando stanno nella villa, che è Villa d'Este, non si sa dove stanno, non si sa perché questi, mentre che parlano, si dissolvono, si riappaiono, si ridissolvono, si riappaiono. Camminate, cioè, cazzo, ma che me rappresenta, cioè, questa cosa? Allora, dal punto di vista narrativo c'ha un senso, perché per esempio è come quando, tipo, se andate a vedere, vabbè, un cagatore, però se vi capita di vedere Black Adam, vedrete che lui, quando ha i superpoteri, non cammina mai, levita. Per far capire che il personaggio è superiore, sì, vabbè, Puccio, quindi fanno vedere che non cammina, ma è un espediente narrativo che si usa nei libri, cioè, ma ci può anche stare effetti speciali un tanto al chilo per dimostrare che lo bravo, secondo me la cosa è la stessa, cioè tu a un certo punto dici, vabbè, quanto ci costano 5 effetti speciali, guarda, a me mi devi da 20.000 euro forfè. Ah, se è forfè, allora fai che gente che si smaterializza, che si rimaterializza, che arrivano con le. Ma poi la Fenice. Cioè, vabbè, raga. Cioè, nel senso. No, cioè, a me le che poi questo aiuta. I Cavalieri dello Zodiaco è terribile. Aiuta a confondere ancora di più, poi le cose. Perché chiaramente, no, già perché, le G-scene sono girate male, che tu non sai come sono messi nello spazio, no? Cioè, le persone. Cioè, da un inquadratore all'altra ci sono talmente tanti errori anche dal punto di vista tecnico. Poi tu ci metti pure questi che si materializzano, svolano. Lo fanno e non si capisce in cazzo, cioè, dai ragazzi, cioè, da questo punto di vista, cioè, l'altra cosa atroce è quando c'è il, diciamo, il duello di volontà tra la blackface Klingon, più o meno, sì, un po' Klingon, diciamo, è vero, e l'eretico, cioè. Che lui dice, quindi chi tra di noi perde verrà confinato nella cripta da cui lui esce 5 minuti dopo, perché controlla il tablet del bambino, e il bambino, che è il figlio di Gesù, apre la cripta. Esatto. Ero lì, cioè, cazzo, l'avete chiusa. Vabbè. No, ma non solo, ma poi pure la sfida. Scusa, Puccio, la sfida, che tu ti aspetti un duello spettacolare alla Matrix. La sfida dura 2 secondi. Io so più forte, puff, dentro. Cioè, dice, devi affrontare la mia progenie e usa il bracciale di Zelda 3, quello dove te devi. Ma sì, perché lei è tornata indietro di qualche. Puff, è il figlio là, è il re scorpione. Allora, lei è tornata indietro di qualche migliaio di anni, perché c'aveva sto figlio, però non si sa perché lo lascia 1000 anni nel passato e lo ingloba praticamente nel suo bracciale, e quindi usa la sua forza vitale per dare una botta a quello che finisce direttamente, proprio dritto. Però sta cosa dura tipo 3 minuti, perché. Meno. Ma neanche, cioè, perché diciamoci la verità, no? allora, entriamo anche un po' nell'aspetto tecnico, così sentiamo un po' tutti quanti. Cioè, questa è la versione estesa del trailer. Il film nel suo insieme è una versione estesa di un trailer, cioè è un enorme trailer di un'ora e mezza, perché tutte le scene sono completamente scomposte, completamente slegate, fatte a micro blocchi, esattamente come tu faresti un trailer per dare un senso narrativo a una cosa, no, che è non... montato come uno dei film tra virgolette di Maccio Capatonda, per capire. Bravo, bravo, è lo bravo. Stesso montato. Guarda, è perché è un trailer, perché è un enorme trailer. Tra l'altro, queste scene a macro blocchi dove le persone camminano, ci sono dei cambi di inquadratura terrificanti, roba del genere, e poi, ragazzi, la dissolvenza in nero non si vedeva dal 1950. Perché? Perché sono micro blocchi. Sono micro blocchi. Cioè, questo film non è stato pensato e girato con un senso di continuità. È stato girato e pensato a micro blocchi. Quindi ogni blocco, quelli là, gli montavano i pezzetti. Gli mettevano la dissolvenza all'inizio, la dissolvenza alla fine, glieli davano, e questo ha messo tutto insieme così com'era, capito? Cioè, no. E questo, secondo me, è la parte peggiore di tutto il film. Non so se che cosa. No, ma torna con quello che disse il tipo del montaggio, che aveva parlato nel video di Yotobi, che sì, disse che sì, ma poi lì si sono pure a blocchi, e loro, cioè, in 10 anni l'hanno montato. Sì, sì, no, ma è così. Perché poi partiamo dalle origini. Walter, l'autrice. Come si chiama? Tu lo ricordi? Non me lo ricordo come si chiama. Eleonora Fani. Eleonora Fani, che è l'attrice che giustamente fa l'aliena protagonista, diciamo l'antagonista, diciamo così, quella che non si sa se è buona, se è cattiva, poi è cattiva e buona, roba genere. Comunque la madre di Gesù Cristo, per capirsi. La moglie di Gesù Cristo, giusto? La scopamica di Gesù Cristo. Che praticamente lei ha scritto sto romanzo, anzi sti romanzi, che devono essere una porcata incredibile. Io non l'ho letti, chiaramente, mi rifiuto di leggere. Puccio, tocca a te. Questo è il lavoro per Puccio, perché Puccio leggi tutto, tu quindi una volta ti toccherà leggere. Io questo sacrificio potrei pure farlo. Te lo compro però, io il libro, te prego. Ma pago io, però lo psichiatra mo pagate voi. Esatto, ok. No, viene Francesco, ci pensa Francesco, qualche amico suo. No, ma secondo me gli serve uno che gli dai farmaci, proprio. Dopo, capito? Allora questa sera in trasmissione c'è Puccio. Gesù. No, ma è probabile che diventi una roba tipo Uzzanti quando faceva come si chiama quello che faceva le trasmissioni di notte. No, comunque nel senso del sacro. Comunque a me mi è venuto un dubbio, ragazzi, che stasera mando una mail a una persona che conosciamo tutti, perché mi è venuto un dubbio perché qualcuno fece un book trailer di una certa persona che secondo me è la stessa, e adesso non posso dire nient'altro. Però comunque questa autrice che ha scritto questo libro, che deve essere chiaramente una monnezza, e poi prossimamente ci dirà Puccio. Io metto cose in chat, dirette Runtime Radio, perché no, lo sta cercando su Amazon, se per spiegarvi book, no vi indico delle cose per spiegarvi, insomma, che è successo davvero, non è che cioè la foto di Eleonora Fani con Giancarlo Giannini, per esempio, non so se era una premiere. Sì, ma lui non è contento, però sta faccia da cioè non è contento. E comunque voglio dire, cioè, questa non solo ha scritto sti libri, ma evidentemente ha scritto sti libri che si è sicuramente autoprodotta, perché questa c'ha i soldi, secondo me. Questa, scusate, faccio un attimo un po' di etrologia becera e banale. Questa c'ha i soldi, si rompe il cazzo, scrive dei libri e ci vuole fare i film, perché questa ci crede alle cose che scrive. Cioè, non è come un autore di fantascienza qualsiasi che inventa mondi. No, per lei è la verità questo. Cioè, il problema è che questa verità lei non la sa tradurre in narrativa, perché non si capisce un cazzo. Lui ci mette tutto dentro, che è la stessa cosa, Francesco, vi è m'incontro, è la stessa cosa che fanno nei post dei gruppi complottari. Cioè, loro scrivono sti post dove dentro c'è tutto, esattamente tutto, nell'arco dei 15, 20, 30 righe. Giusto, Francesco? È così, è preciso. Ma la cosa bella è che diversi di questi gruppi complottari, tempo zero che è uscito, già c'era il file piratato di questi gruppi. Li avevano avvisati, che vedevo. Io ste foto che mi sta facendo mettere sbano qua. Cioè, la cosa migliore del film è lei quando fa l'ibridazione col DNA di Gesù, che è vestita come una meringa. la foto sì, ve la risparmio, è meravigliosa, cioè, la no, metti la foto di lei oramai dobbiamo come Klingon, no? Che è importante, insomma, perché lei ovviamente, avendoci messo i soldi, ha anche un ruolo da protagonista, insomma, no, anzi il ruolo da protagonista del film, ovviamente una recitazione cagnesca. No, ma tutti, cioè, non solo lei. Vabbè, tutti tranne ovviamente quei due che sono molto sopra, anzi quei tre che sono sopra, diciamo, il livello, che chiaramente ti domandi, ma quanto ti è rimasto di mutuo per dover fare una cosa? Perché io non penso, guardate, io ragazzi con personaggi di un certo livello ci ho anche interagito e va sicuro che non è solo una questione dei soldi, perché a volte può anche non essere una questione dei soldi, ma se loro ci devono mettere la faccia, deve essere una cosa sulla quale non fanno figure di merda. E io non mi riesco a capacitare come sta gente, cioè, quindi Giannini, Luca Ward, Gerard Depardieu abbiano. Ma lascio perdere William Shatner, perché a quello gli sono andati a casa loro. Ti regalavo sto bel monocolo e un po' del Barbon. Il Barbon, gli hanno portato il Barbon, una luce di qua, una luce di là, con una telecamera, e lui si spostava il busto, perché lui ha fatto tutto il film da seduto poi praticamente, no? Quindi fondamentalmente non si è manco mai mosso. Cioè, però quell'arte io non mi riesco a comprendere come. Cioè, tu l'hai letta la sceneggiatura di sta cosa? Non puoi non averla letta. Ma forse secondo me l'ha letto solo la sua parte. No, non può essere, non sì, puoi. Non ci voglio credere, un professionista non fa una cosa del genere. Beh, no, William Shatner. Shatner, io sto a parlare degli altri. Ah, ok, ma io sto a parlare di Shatner. Marlo Brando, quando ha fatto Superman, che ha fatto Jor-El, lui non sapeva né chi era il personaggio, né aveva letto la sceneggiatura. Glielo spiegarono prima. Lui recitò le battute e basta, senza sapere un cazzo. E secondo me Shatner ha fatto con tutto. Evitiamo il paragone con Marlon Brando, però secondo me ha avuto lo stesso approccio. Mi stanno dando dei soldi, non ho capito che è sta roba, va bene. Per gli altri io ho un sospetto che molti abbiano accettato pensando che questo film non sarebbe uscito mai. Depardieu, Giannini, Luca Ward, ho detto vabbè, oh, mi stanno a pagare. Vabbè. Sta roba è talmente incasinata che probabilmente non uscirà mai dal circuito dei DVD, probabilmente. Ma guarda, se guardi le foto che ho messo in chat adesso nella carrellata, sono tutte immagini di una premiere che probabilmente si è tenuta, credo, in Corea, perché dai cartelli. No, è stata a Lucca Comics. Sì, non sono quelle, quelle foto, c'erano dei cartelloni con delle scritte in coreano, perciò probabilmente Pyongyang. Dici che ho confuso. No, ma sai, questo è Lucca Comics. Pyongyang. Ho confuso la Corea, ok. Sì, allora ha un senso così all'improvviso. Vabbè. No, ma che loro fecero la premiere a Lucca Comics. Scrivo, poi vedevo lasciare. Scusate. Oh. Ciao. Buonanotte. Ciao, buonanotte Francesco, è stato bello. Buona prosecuzio. Bene. E niente, vabbè, insomma. Vabbè, quindi c'è questa scrittrice che scrive questo libro, tutti, ah, è bello, trovano i finanziamenti, sicuramente ci hanno messo in mezzo tutto, perché chiaramente per prendere finanziamenti ci hanno messo in mezzo tutto, compreso Biglino, che viene non solo citato ma mostrato anche in diverse occasioni, più ovviamente c'è una parte di lui che viene intervistata da un'incredibile trasmissione televisiva senza effigie. No, ma il fatto che Biglino sia il creatore, che è inquietante, cioè che fanno vedere che quando fanno l'intervista in realtà è lui che parla, esatto. Si chiama l'eretico che parla, è terribile quella cosa. Comunque, ragazzi, stavo indagando proprio in diretta. In realtà, la povera autrice del libro, allora, Eleonora Fani è accreditata più che altro come produttrice cinematografica, diciamo che il ruolo preponderante se fai una ricerca. Però, da quello che leggo, lei ha scritto un libro nel 2004 che si intitola Psiche Afrodite, rinascere negli dèi, qualcosa del genere. E dopo, nel 2020, quindi successivamente all'uscita del film Creators, ha fatto uscire il libro Creators the Past, quindi probabilmente non esiste il seguito nemmeno in cartaceo. Ma non lo so, secondo me il libro esisteva già, solo che ovviamente magari non era pubblicato, oppure è accreditato 2020 come magari dopo 2020, ha trovato le risorse insieme al film. Come si dice, dopo il film, è tra l'altro un libro di 190 pagine. Dai, Puccio, tu mezza giornata dove leggi? io vi ripeto, ragazzi, io me lo leggo pure. Però io poi, quindi, poi le conseguenze, le conseguenze. Io ho dei figli. Vabbè, no, poi diciamo, stampato da Gruppo Albatros di Roma. Poi, ragazzi, diciamoci la verità. Non è nuova come etichetta. No, Albatros, sì, infatti. Gruppo Albatros, il filo SRL. Comunque, il problema è che pure vedere il film è stato un trauma. Perché, diciamoci la verità. Allora, poi dopo affrontiamo anche gli aspetti tecnici. Abbiamo detto un grosso trailer, tutte scene sconnesse. Succedono delle cose, c'è cioè pure una banalità narrativa incredibile e una confusione che non finisce mai. Però, poi alla fine, diciamoci la verità, noi eravamo pronti alla bruttezza. Però a volte è la cosa straordinaria, forse il pregio di questo film, e glielo devo riconoscere, cioè nel senso, gli faccio anche un applauso da questo punto di vista, perché questo film, Gualdi, è talmente brutto che pur sapendo che il film era brutto, che eri pronto a vedere una cosa brutta, che abbiamo visto tante cose brutte e quindi eravamo preparati, tutto sommato questo film è riuscito a spiazzarci, perché è peggio di qualsiasi cosa che noi avessimo potuto aspettarci, perché per essere arrivati a quei livelli lì ti aspetti quantomeno un livello tecnico importante, ma non dal punto di vista degli effetti speciali. Io parlo dal punto di vista cinematografico, cioè il film può anche raccontare una storia brutta, non avere una buona regia, però complessivamente, cioè, un film professionale è un film. Questo non è un film, questo è uno spot gigantesco e basta. Cioè, quanto sei rimasto stupito dalla sua capacità di essere brutto? Allora, io immaginavo che una sua bruttezza, perché effettivamente, cioè, è un film sicuramente brutto, non si può negare. Però non pensavo così brutto. Effettivamente così brutto non lo pensavo. È vero, vero? Perché, cioè, nel senso che alla fine tu dici questo è brutto, però dentro di te una voce ti dice secondo me poi mi sorprenderà in qualcosa. E infatti è così, cioè ti ha sorpreso in qualcosa. No, però mi aspettavo che perlomeno ci sono tanti film, cioè quanta monnezza abbiamo visto tanta monnezza. Però monnezza confezionata bene. Però non prende a cazzotti il microfono. Monnezza confezionata bene, quindi comunque. E questo gli manca pure la confezione, sì. Una fotografia, sì. Dialoghi magari sono belli, ma un film è una merda, o comunque c'è sempre qualche cosa che può mandare a puttana tutta quanta la produzione. Io invece non ho mai visto un film che si definisca film serio che raggiunga un livello di bruttura in tutte le sue fasce, in tutti i suoi pezzi. Cioè sono brutti i dialoghi, è brutta la storia, è brutto il montaggio, è brutta la fotografia, sono brutti gli effetti speciali, è tutto brutto. Cioè non c'è niente che dice però sta cosa riesca a salvarla. Non c'è un cazzo che si salva. E questo è un pregio, ragazzi, è un pregio, perché è una sorta di Walter, vengo da te, è una sorta di achievement tutto sommato, no? Perché poi noi, giustamente, così come è successo con In The Market, questi sono film che tu te vedi insieme ad amici, non lo puoi vedere da solo secondo me. Questo per poterlo ricordare meglio. No, nel senso che secondo me da solo, Walter, questo sarebbe un trauma, è come guidare uno Jäger, bisogna condividere il peso. Esatto, bravo. Ecco, ragazzi, io l'ho visto da solo. Tu l'hai visto da solo, infatti secondo me sei più provato di noi, perché noi comunque abbiamo riso, cioè tutto sommato abbiamo anche riso, cioè tra una bestemmia e un'altra, Gesù Cristo di qua, no Walter? Sì, però c'era la consapevolezza, no? Tu immaginati, ho una comitiva di persone che lo guarda inconsapevolmente, o comunque un singolo che non sanno cosa stanno per vedere e che anzi magari a tratti, in buona fede, no, dal concetto, cavolo, per una volta in Italia si prova a fare un film certo, scienza, è vero, ma me lo vedo che sì, e ti arriva sto tir a tutta velocità sulla 1 da Ronco Bilaccio a Barberino del Mugello in piena velocità, te lo becchi sui denti. Hai ragione. Non deve essere facile da cancellare come trauma. Hai ragione, sì. Lo facciale ci vuole. In effetti non avevo considerato questa cosa, perché il trailer, pur insomma facendo, cioè per le persone un po' più attente, cioè noi l'avevamo intuito subito che era una porcata che parlava di porcate, no? Che era perché proprio quello era proprio il momento, anche se parlava di sti cazzo di Anunnaki, il settimo pianeta, il ottavo pianeta, i cazzi, no? Tutte queste cazzate. Il settimo pianeta. Tutte queste cazzate qua. No, però in effetti, se tu senti il trailer e non sei una persona attenta, sei il più grande colossal sci-fi italiano, no? E tu poi, dici, oh cazzo, fammi andare a vedere, magari è figo, cioè, nel senso... Se tu prendi alcuni aspetti e li estrapoli e soprattutto guardi solo il trailer e parti dal presupposto che stai guardando qualcosa di fatto in Italia, dove nell'epoca recente gli unici timidi di approccio alla fantascienza li ha fatti Gabriele Salvatores e comunque, diciamo, niente di... Forse, guarda, l'unico film recente, anche bello da vedere in Italia, che abbia degli effetti speciali, diciamo così, hollywoodiani, è stato Freaks Out, no? Ma tolto quello, per noi è un mondo completamente avulso. Quindi quando ti fai fregare da qualche effetto speciale che sicuramente non è a livello di Marvel o di Industrial Light and Magic, però per essere una cosa italiana, quattro frame veloci in un trailer ti possono anche far pensare, vabbè dai, tutto sommato ci hanno anche provato, merita d'essere visto. E poi ti accorgi che probabilmente il lato tecnico degli effetti speciali è il meno peggio di una serie di casini che hanno fatto. Sì, perché comunque... sì, vabbè, diciamo dignitosi, non all'altezza di un'opera cinematografica, ma comunque dignitosi. Però considerando che in Italia non si fanno mai, quello è l'unico aspetto che si salva. Sì, che poi non è vero che non si fanno mai, è che non si fanno per il cinema italiano, perché comunque tante aziende in Italia lavorano nei... Sì, ma io ti parlo di prodotto cinematografico di genere che in Italia non che si in Italia fa. Non si fa, giustamente. No, perché comunque non c'è la cultura, perché comunque i costi sono importanti, però anche in Italia, soprattutto al nord, ci sono tante piccole farm che lavorano per le produzioni internazionali collaborando agli effetti speciali, quindi insomma poi alla fine c'è una base tecnica, perché secondo me poi sì, non è, sì. Da noi non è una questione di competenze, è una questione di cultura, no? È una questione di non abbiamo la cultura di sta roba, ok, che questo mi sta anche bene, quindi anche poi perché non abbiamo l'attitudine di dare a questo tipo di film, se proprio li facciamo, un taglio internazionale. Sì, esatto, vabbè questo poi se va, ma non è neanche nazionale, cioè, esatto, perché poi alla fine se tu vai a vedere, nel senso, noi abbiamo visto quello francese lì, la guerra dei mondi, cioè alla fine neanche loro glielo danno il taglio internazionale, cioè, però senso, cioè, il problema è che noi siamo abituati a vedere le cose americane, quindi quando vediamo una cosa che non è americana e quindi ci risulta un po' di più, ma proprio perché comunque non abbiamo la base culturale anche produttiva per fare sta roba. La guerra dei mondi che stai dicendo, quello di Luc Besson basato sul fumetto francese? No, sto parlando di World of the Wars di Canal Plus. Quindi, ho capito. Okay, sì. Era brutto, che, no, va bene, porco. No, dai, non mi fa bestemmiare. Esatto, sì, mi stava uscendo la bestemmia. Scusate, però non. No, non te la fai uscire per Creators, te la fai uscire per. No, però questo. Tu mi dici è carino. No, carino non è carino. Cioè, noi ci abbiamo provato. Non mi ha fatto vomitare come questo. Cioè, almeno c'era la. Guarda, noi abbiamo finito la prima stagione con Gualdi. Abbiamo provato a vedere le prime puntate della seconda stagione. A un certo punto. E guarda, voi mi conoscete. Io non abbandono una serie che ho iniziato neanche se mi sgozzano, perché proprio in principio hai abbandonato questo capolavoro. L'ho proprio abbandonato. Di Falling Skies. È Falling Skies, è vero. Però Falling Skies c'ho l'attenuante che io la terza stagione non l'ho iniziata. Quindi c'è in un. Quindi io ho visto fino a dove ho visto e poi non sono andato avanti. Nel senso, invece qui ho proprio. Ragazzi, torniamo a bomba. Perché sì, è vero. Comunque, vabbè, volevo sapere. perché poi dopo viene. Cioè, raccontiamo un attimo, perché ci sono delle situazioni. Abbiamo già raccontate un po' all'inizio, che so, veramente un po' al limite dell'assurdo. Cioè, io scopro, che lavoro in ospedale perché sono un dottore, scopro. Senza spiegare come, perché a un certo punto mi sono trovato a passare davanti a una porta proprio in quel momento in cui c'erano dei libri abbassati, scopro che c'è un passaggio segreto che porta il mio ospedale in un'altra ala dell'ospedale che è uguale a quella di prima, solo che è segreta. È buia. Esatto. È buia e segreta. Che ha le finestre, quindi come cazzo hai fatto a non accorgerti che c'è un'altra ala dell'ospedale? Ma non solo, ma ci sono pure i fogli attaccati alle bacheche, quindi se vai a vedere, è questo la differenza. Differenza tra chi sa fa un mestiere, perché sono i dettagli, una scena è curata e c'è una persona che prende nota di ogni foglietto che c'è sta all'interno della scena, capito qual è il problema? Però lì c'è proprio un no sense che va al di là dell'incapacità tecnica. Esatto, perché tu architetti una scenografia per cui dentro questo studio, no, di questa sala riunioni, anche un po' arcaica, con una biblioteca di questo ospedale, se apri due libri si apre il famoso passaggio segreto nella libreria. Sì. E questo passaggio segreto dove te dovrebbe portare? In un'ala in disuso dello stesso ospedale. Ma che cazzo stai a dire? Cioè, questo è il fatto, perché non è che te porta in un sotterraneo segreto, anche solo per quel motivo. Poi per quello giocano dico. Peggio le cose, perché ti fanno vedere che chi ha girato in quel corridoio non ha avuto nemmeno, forse non l'hanno potuto fare, non dovevano toccare niente, ma non hanno avuto nemmeno la prontezza di staccare dai muri i cartelloni tipici dell'ospedale. Esatto, era quello che stavo a dire io. Infatti, alla fine, se tu vai a vedere, cioè io mi aspetto che tu il passaggio segreto lo porti a un sotterraneo. Cioè, nel senso, riallestisci una scena tale che fa capire che lì c'è un laboratorio segreto. Capito? Certo, no. Tu devi nasconderti quell'ala, cioè deve essere un posto nascosto alla vista. No, è un posto d'ospedale. Un pezzo normalissimo d'ospedale, dove a un certo punto dentro la stanza c'è una tizia con una lucetta buttata lì, allora, che gli lampeggia pure. Allora, la cosa è che, essendo questo passaggio segreto, non lo so, magico, non si sa perché emette della luce. Questo è importante. Aspetta che c'è questa cosa qui. Noi in realtà non possiamo sapere se questo ospedale è veramente attaccato all'altro e si trova a 100 km. Esatto, non lo possiamo perché sapere. C'è un portale. E neanche problema, te lo fanno capire. Quindi quello è proprio un problema, che non te fanno capire che cazzo è. Questo... Sono stati introdotti un archetipo di personaggi che non ci ha spiegato chi sono. Che sono questi pseudo-umani o persone, probabilmente degli alieni integrati nella società umana, che cercano di alterare la realtà delle cose. Sono quelli che fanno diventare gli occhi neri tipo alieno, tipo impestato, no? Perché a un certo punto abbiamo visto scuriscono tutta la coclea, gli diventa nera, tutta la sclera degli occhi gli diventa completamente nera, a farci capire che sono qualcosa di non umano, però non ci dicono chi sono. Aspetta, se sei complottista, aspetta Puccio, un secondo, scusa Puccio, un secondo solo, perché poi vengo da te, segnatelo quello che diceva Marco. Cioè, è giusto quello che state a dire, cioè è assolutamente corretto. Il problema è che Marco fa riferimento a una cosa specifica, che è un errore proprio dal punto di vista registico, narrativo registico. Perché se, uno dei tanti. Perché se io apro un passaggio segreto e questo passaggio segreto emette un bagliore, poi io, attraverso il passaggio segreto, il bagliore è dietro di me, allora o tu mi fai capire che quello era un portale, un teletrasporto, una qualsiasi cosa che mi ha portato in un'altra dimensione, oppure tu hai messo una luce a cazzo che non c'ha nessun significato e nessun valore e disorienta ancora di più chi sta a guardare sta cosa, capito? Perché, cioè, a me mi avrebbero segato se avessi fatto una cosa del genere. Ma magari proprio... in sceneggiatura non c'era nemmeno scritta, poi in post produzione qualcuno avrà bagliore, pensato, mettiamoci il bagliore. Figo. No, perché lui quando scende dalle scale, no, ve lo dico io che la luce è fisica, cioè si vede che c'è una luce che ve lo dico io che è successo. Questo vai. Praticamente sono arrivato le scene al montatore. E il montatore ha detto: ma qua si capisce un cazzo, ma perché questi qui vanno dentro un altro proviamo pezzo a metterci di ospedale, no. Dentro un ospedale e no, se ne accorgono, non è così, cioè. Non è così, perché quando lui scende le scale c'è la luce che tremola sul muro, quindi quella non è una cosa che l'hanno potuta riprodurre in post produzione, capito quello che voglio magari dire? Magari hanno messo la luce dall'altra parte perché lì si sono trovati la luce che tremolava. Ecco, allora un altro discorso, ma sta luce che cazzo ce l'avevamo messa a fa? E allora in montaggio uno dice: allora mettiamocela pure da quest'altra parte, ma non significa niente, nessuno dei due casi, capito? Cioè è una merda che non c'ha nessun... ma okay. Però io è solo per fare degli esempi. Dopo vi dico la mia teoria. Vabbè, Puccio, vai, scusa, stavi dicendo. No, stavo dicendo il fatto che ci siano personaggi con gli occhi colorati. In realtà, se vi è capitato di leggere le cazzate di alcuni gruppi complottisti, in realtà un significato ce l'ha. Se tu noti, ci sono questi che hanno gli occhi neri, tra cui il maestro di fede, i cattivi, tra virgolette, la dottoressa che vuole lobotomizzare la coprotagonista e gli altri. E quella che invece fa in modo che il dottorino scopra il passaggio segreto ha gli occhi dorati quando si concentra. Perché nella testa di queste persone che hanno letto probabilmente libri diversi dai miei e molto più sbagliati, scusate un attimo, vabbè, non ho capito che è successo, stavo dicendo, noi siamo un campo di battaglia dove due gruppi di alieni si fronteggiano e cercano di influenzarci, quindi c'è quella buona che gli fa scoprire il passaggio segreto e quelli cattivi che hanno il laboratorio, il passaggio segreto, eccetera eccetera, che non si capisce comunque chi vabbè, sono i buoni. Resta il fatto, Puccio, che a livello di sceneggiatura, a livello di narrazione del film, me lo devi spiegare. Poi lascia perdere che noi ci possiamo arrivare per vie traverse conoscendo da quali fonti hanno attinto il complottismo. A livello di racconto non lo hanno spiegato. Cioè, però li fa capire perlomeno. Non spiegare, cioè, ma per, come ce ne va arrivare? Ripeto, probabilmente nelle loro intenzioni alcune cose si dovevano dipanare lungo più di un film, e quindi una serie di domande resteranno senza risposta, perché a meno che adesso l'hype della fanbase, tutto il fandom, non si ribelli e non decidano di fare un director's cut come è successo con lo Snyder Cut di... Pensa che figata, il Pier Zayas Cut di Creators. Mamma mia ragazzi, dai, no, comunque... Cioè, nel senso, quello lì è proprio una... Lì quando tu scrivi una cosa del genere, dal punto di vista proprio della sceneggiatura, al di là della deframmentazione che è tutta una merda, cioè lì comunque c'è del dilettantismo, il problema è che lì si aggiunge anche un altro livello, un altro strato, che loro danno per scontato che chi vede questa roba, perché questa roba non è diretta al pubblico, questa roba è diretta a loro, quindi chi vede queste cose già riconosce determinati presupposti, archetipi, sì, capito? Cioè, perché una persona che non le sa queste cose non ci capisce in cazzo di sta roba, perché è un mischione senza fine. Scusa Puccio, vai. Puccio? Sentite? Sì, adesso sì. Dicevo, è talmente evidente, no, ogni tanto mi perdo il microfono, scusate, è talmente evidente che è scritto per un pubblico molto settorializzato che queste cose già le sa, che molte cose non le spiegano perché le ritengono superflue. È quello il fatto. No, ma è evidente che si accorgono che quelli sono i rettiliani, loro vi ricordate, fanno vedere che la coprotagonista viene rapita più volte e che viene sollevata da una roba credo in gomma piuma grigia, sì, che dovrebbe essere un alieno, perché i grigi, i grey, teoricamente stanno dalla parte dei buoni, quindi l'hanno modificata in modo che lei potesse combattere i cattivi, che sono tipo i rettiliani eccetera eccetera, che hanno gli occhi neri, perché una fissazione loro è che tu capisci se una persona è un rettiliano o meno, perché a volte dalle fotografie cambia la forma degli occhi, no? Dicono sempre sta cazzata, guarda le foto, Soros c'ha le sclere degli occhi che sembrano quelle di un rettile. Cioè, hanno giocato su sta cosa, e se, il fatto che non l'abbiano voluta spiegare è indice che torna che il pubblico di riferimento era quello lì. Sì, sì, ma è chiaro che è così, perché comunque ci sono alcune cose che allora, spiegano le cazzate, tipo donna, c'è una donna legata su un letto, però poi dopo tu non mi spieghi i colori delle cose, chi è il buono, chi è il cattivo, perché questa è una cosa dedicata per loro stessi. Cioè, questi hanno speso centinaia di migliaia di euro, io non voglio sapere neanche quanto cazzo, per farsi il film per loro, cioè nel senso, è come fa il film sulla Bibbia, che ho fatto il film sulla Bibbia, oh, che bello, la Bibbia, c'è Gesù Cristo, cioè, infatti sì, no, diciamo, ma... che con la Bibbia avresti un po' più di spettatori probabilmente. Sì, vabbè, a parte quello, no, cioè, però capito, è come un film di religione, capito, cioè, però la Bibbia, per quanto possa essere fantascientifico, è scritto meglio, è sicuramente a fini logici migliore, certo. Quindi senti, intanto il nostro Shuren ci mette in chat un riferimento a un reel su Instagram, non ci posso cliccare adesso, sennò vi sparerei l'audio in diretta, sarebbe un casino, però lui dice: se volete la vera fantascienza italiana, e non so il reel a cosa fa riferimento, quindi non so se lo volete guardare, se lo volete citare, perché poi la curiosità un po' ce l'ho. C'è Berlusconi e cazzi vari, cioè. Ah vabbè, mi credevo qualcosa di, che ne so, Ornella Muti in Flash Gordon, no, niente, Dune. Sì, è dal canale Crazy Italian Poll, quindi insomma. Ah vabbè. Comunque vabbè, insomma, che punto siamo arrivati? No, non lo so, non ha importanza, no, tutto così confusionario. Mi sono scollegato assolutamente. Cioè, il discorso, per esempio, comunque poi alla fine, ecco, arriviamo un po' al succo, diciamo che dal punto di vista tecnico non eccelle in niente, sebbene l'unica cosa che si può dire è che sicuramente sono state usate attrezzature di ripresa di alto livello, perché lì comunque l'immagine è girato in 5K. Sì, dai, l'immagine è pulita, la profondità di campo è giusta, anche l'uso dei colori è tutto molto equilibrato. La fotografia c'è perché è quella basica, cioè nel senso è quella standard che utilizzeresti anche a fare un footage per video stock, cioè nel senso, sì, è tutto fatto a preset, voglio dire, non bravo, è che cioè, nel senso, però, comunque è quello che tu utilizzi per lo sport, c'è un livello ragionevole, come, sì, cioè, sì, ti potrei citare coproduzioni locali che sono uscite anche in alcuni cinema pagando, che non hanno questa fortuna. Purtroppo è così, vabbè, a volte alcuni lo fanno pure per scelta, perché sai, poi noi, da noi ci abbiamo sta fissa che le cose devono sembrare più neorealiste, no? Il problema, ragazzi, però scusate, in tutto questo, perché io volevo fare un preambolo, prima in chat io vi ho messo un sito web, non so se l'avete visto su Diretta Rantemare. L'ho visto, okay, ma non ci ho cliccato. No, lo dovete fare, perché dovete capire il personaggio di Giuseppe Zaia, il quale secondo me tutto è meno che un regista. La sua carriera sembra in parte incentrata sulla musica, sul fatto che lui abbia fatto il conservatorio o qualcosa del genere, tant'è che anche l'autore della Pregiata, colonna sonora del film, ma di sicuro questo, se un giorno ha deciso di poter essere all'altezza di mettersi in mano una macchina da presa e di farsi la regia di un film, e con l'aiuto probabilmente della sua sodale Eleonora Fani, quello che è, si sono prodotti il film. Beh, però sì, non c'aveva un credito di background Zaia, cioè non aveva nessuna esperienza prima, per cui tutto sommato troppo bene gli è venuto, se consideri che veramente questo non ha nessuna attitudine pregressa a quello che ha fatto. No, secondo me, guarda, cioè, io mi faccio questa idea qui, cioè poi al di là del fatto che poi questa gente o so dei paraculi, dei grandi paraculi, o sono talmente fanatici da riuscire a trovare dei finanziamenti per farlo. Perché poi io quello che mi sono reso conto è che in Italia, se sei un certo tipo di persona, in un modo o nell'altro comunque ci arrivi a rimediare i soldi, anche se sei l'ultimo degli stronzi, però devi essere, ci devi avere quella capacità lì, oppure quella strada in quell'altra maniera. Però c'è anche da dire che lui è chiaramente non solo non è un professionista, lui non ha una consapevolezza registica, cioè lui non sa proprio di che si tratta. Chiaramente la sua fortuna è stata che, avendoci i soldi, c'era sicuramente un direttore della fotografia e sicuramente un operatore di ripresa che hanno fatto il loro dovere a prescindere da quello che voleva lui, perché chiaramente poi la gente non va lì a fare la figura del merda perché c'è Zaia che gli dà i soldi, capito? Cioè, poi c'è anche questo da dire, no? Perché comunque un operatore che lavora male, un direttore della fotografia che fa la merda, la prossima volta non lavora, cioè questo è un dato di fatto, no? Puoi essere anche il più bravo dei professionisti, però se fai la merda ti rimane sul curriculum, no? Detto questo sempre questo, se vuoi avere un curriculum. Ma sì, allora lui non gliene frega niente. Ma un operatore di ripresa e un direttore della fotografia che ci tengono al loro lavoro, ci tengono al loro lavoro. In realtà non abbiamo visti quanti John Smith, John Doe c'erano. No, sicuramente c'è un direttore della fotografia. Sto cercando, ragazzi, nei crediti tecnici, perché okay, veramente sono curioso di capire. Non c'è un direttore della fotografia. Diciamo che le figure che ci si avvicinano di più sono cinematography by Ezio Gamba e film editing by Andrea Torreano. Se vabbè, vai a cercare un direttore della fotografia o altro, non ci sono. Vabbè, diciamo che oggi nelle figure moderne, quelle più easy, più stringate, cioè il cinematographer è quello là che poi alla fine fa operatore e direttore della fotografia, un po' come quello che fa, sì, Alex, sì, fondamentalmente. È un ibrido, è il classico, è l'equivalente del full stack developer. Esatto, cinema, sì, okay, però ne paga uno solo per... Però una cosa c'è da dire importante, secondo me, perché dato che lui è musicista e dato che lui probabilmente avrà curato anche il, diciamo, parte del sound design, cioè se c'è una parte che fa veramente schifo di questo film, non è solo la colonna sonora che è molto stereotipata, quindi non c'è niente, ed è, però è proprio il fatto della la colonna sonora è sempre presente, non c'è un momento in cui non c'è sta colonna sonora che è sempre sopra le righe, questo ti fa capire l'egomaniacalità di un personaggio così, perché la sua colonna sonora a volte straborda anche il parlato, cioè ci sono delle parti, soprattutto all'inizio del film, che non si capisce che cazzo dicono, perché il volume delle voci è più bassa rispetto al volume di sta cazzo di musica che è sempre presente, sempre costante. Aspetta, dopo tutto è più importante la musica di quello che dicono, insomma, molto quello sicuramente. Ma guarda, è molto probabile che la poca esperienza che aveva la troupe che ci ha lavorato, secondo me, veniva dal mondo dei videoclip, perché anche il montaggio te lo suggerisce, da video musicale. Perché tutti i pseudo registi moderni, diciamo, prendono Madonna spunto. Allora, scusate, Peppe Rizzard dice: la vera fantascienza è guardare Sanremo con la traccia audio di OGM. Il top è quando Pizzi va in lip sync con Amadeus e a me mi tocca la Ferragni. Che schifo, che schifo. Vabbè, dai, ragazzi. Da oggi ci sarà Ferralter. Mamma mia. Comunque, ve lo devo dire, ragazzi. Cioè, voi lo sapete, noi poi sì, a volte esageriamo anche per ironizzare, no? Però questa è veramente una roba brutta. Cioè, una roba brutta. E che io continuo a ribadire. Cioè, ecco, se io devo dare un giudizio finale, poi tutti voi date il vostro giudizio finale. È che su una cosa, cioè, aspettate, scusate. Io devo dire una cosa, perché, cioè, mi dovete perdonare, mi prendo un minuto soltanto, però è quando il cinema è morto, e guarda che il cinema era già morto, perché il cinema è morto già da un pezzo, però è come vedere sto cinema che è già morto, che oramai è uscito troppo sangue, anche se tu prendi le sue cure, e oramai è troppo tardi, non gliela fai, è morente, sta lì, non c'è. Però arriva qualcuno che invece di dargli il colpo di grazia si tira giù i pantaloni e ci piscia sopra, che caga sopra. E piscia sopra, perché tu cinema stai morendo, io non te salvo e non t'ammazzo, ma te piscio addosso. Penso, cioè, che potrebbe aiutarti. Però ragazzi, io devo fare una... No, lascia la musica compassata, Simone, perché devo far notare una citazione dal film, perché c'è una frase potente pronunciata da Lady Eir. Ricordiamo, il film è del 2019 ed è importante ricordare questa cosa, perché in una battuta del film, a un certo punto, il personaggio di Lady Eir dice una cosa che si è rivelata emblematica, e io credo che sia proprio la chiosa su tutto. La frase dice: scateneremo una vera pandemia. Vabbè, comunque è successo. Comunque questa cosa della pandemia era nell'aria oramai, quindi già da un po' di tempo se ne parlava che prima o poi sarebbe arrivata, quindi sai, questi poi ci hanno fatto un po' gioco sopra. Però ecco, diciamo questo, che il cinema è morto, questo film gli ha dato una bella botta. Ai bordi delle strade il cinema è morto. Esatto. E la cosa bella è che io sono uscito fuori spezzato in due da sta cosa, perché da una parte ti ho detto, è riuscito a sorprendermi per la sua bruttezza nonostante che ero preparato, e dall'altra mi ha talmente sconfortato il fatto che questa roba sia andata in giro in qualche modo, e che ci sanno magari veramente bravissimi registi, insomma, che comunque cercano di barcamenarsi in tutte le maniere per cercare di trovare due spicci per riuscire a fare i loro film, che magari sono il sogno della loro vita e che magari non ci riescono. Ecco, questo lo so che mo può sembrare un po' paternalistico, retorico, roba del genere, ma è un dato di fatto, ed è una cosa che onestamente un film come questo e come In The Market mi fa incazzare, perché poi dopo io a volte mi autocensuro e mi costringo a non dire il fatto che sta gente ha dato il culo, su, dai ragazzi. Però la Fani, cioè, no, volevo dire, quantomeno, poi riguardando i titoli di coda e tutto, questo film non ha attinto dai classici fondi del MIBACT piuttosto che dei vari fondi regionali che regalano soldi a chiunque millanti di fare dei film. Ecco, questo sicuramente c'è da dire che nel bene e nel male se lo sono comunque prodotto per cavoli loro. Ecco, non ci sono fondi europei, non ci sono soldi pubblici di nessun tipo, mi sembra di poter dire. Grazie. Quindi, a Dio, grazie. Capisco a Dio il discorso che fai tu, però probabilmente, cioè, voglio dire, se lo so pagato coi soldini loro, che possiamo fare? Ma sì, vabbè, tutto sommato è tutto, cioè, cosa meno peggio, tutto perché poi quando tu inizi, comunque all'inizio del film c'erano tutta una sequela di produzioni e coproduzioni che coproduzioni. Comunque Puccio, il tuo commento finale. Ho una grandissima voglia di rivedermi Nirvana. Grandissima voglia di vedermi Postal di Uwe Boll. Vabbè ragazzi, ma lì sono, cioè, lì rivalutiamo anche Fattore. Vabbè ragazzi, cioè, Uwe Boll perlomeno fa dei film, cioè, saranno brutti, no, ma più che, no, più che brutti, perché poi in realtà trash. I film di Uwe Boll, non so, cioè, tecnicamente brutti, è che sono inguardabili come film, cioè nel senso che... ce ne sono alcuni, tipo c'è quello appunto con Jason Statham che è veramente brutto in tutti, cioè manco un mince, allora, ricordate che lui ha fatto Alone in the Dark, ragazzi, Alone in the Dark, quello sì che è un film brutto, cioè nel senso, perché... però per quanto siano brutti, però lui brutti... comunque sono più curati, sì, no, nel senso brutti in senso becero, secondo me c'è anche c'è anche un'intenzionalità, no, è come i film della Asylum, ma no, magari da un certo punto di vista tutta la roba tipo posta, poi che altro ha fatto che ha fatto, ha fatto Alone in the Dark, ha fatto diversi, ma due o tre videogiochi ha fatto, però quelli sono fatti con proprio con la cosa di fare un trascino, sì sì, infatti no. Lì comunque vedi che qualcosa si salva, tralasciando che lui è un nazista, però vabbè, questo poi è loro non hanno oro, non ho letto, no, quella è la pecunia, non ho letto, penso che anche loro ebraico non hanno puzza, no, dai, vabbè, come quello già il culo, comunque Uwe Boll ha fatto posta Alone in the Dark, In the Name of the King e Blood Rain come Blood Rain. Bravo, ecco, vedi, non mi veniva, bravo, ma sì, credo che ce ne siano poi qualche altra tonnellata, madonna, sì. Blood Rain, vabbè, ma lui deve noi che poi l'abbiamo visto insieme sia Postal che Blood Rain, tra l'altro il fatto che voi sapete che lui e il fratello sono produttori cinematografici in realtà, sì. E quindi ovviamente insomma trovai le risorse per fare dei film di merda, per loro è uno scherzo, insomma, cioè nel senso, comunque vabbè. Far Cry, ci dice Luca, Far Cry, mi sa, bravo, sì. Fa tutta sta roba qua, comunque vabbè, dai Puccio, commento finale, Walter, Marco, e andiamo se l'altro, perché no, vi ripeto, io vado a vedermi Nirvana per la disperazione, anche perché io vi ripeto l'ho visto da solo, quindi non c'ho avuto neanche l'alleggerimento dell'ironia. Infatti, perché tu poi ci hai anche provato a dire, oh, vediamocelo in un gruppo su Amazon. Solo che sì, il gruppo Watch, solo che eravamo un po' sparsi. Sì, no, più che altro perché noi non l'avevamo neanche previsto di vederlo, solo che poi alla fine eravamo in anticipo coi tempi con Runtime by Night e di vabbè, dai, cioè vaffanculo, vediamo se lo siamo visto e... abbiamo condiviso il carico in tre, per cui ne siamo usciti anche piuttosto bene, meglio, ne siamo usciti meglio, sì, però insomma, Walter, tu che dici? Persone migliori, no, vabbè, io voglio dire, non è che mi aspettassi niente di diverso da quello che ho visto, però mi sento un po' in colpa perché spargendo il verbo anche con gli amici, oggi per esempio mi sono scambiato due messaggi in chat con Kubert in chat, no? Cioè nel senso, voi lo conoscete come Kubert, e gli ho chiesto, ma insomma, ma poi hai finito di guardarlo? Perché gliel'ho segnalato il sabato stesso, ho detto, guarda, ti devi per forza vedere questa cosa, non esiste che non te lo vedi. E oggi gli ho scritto, ma poi l'hai visto Creators? Mi ha risposto, è una parte, è qualcosa che va oltre quello che potevo immaginare. infatti. Perché vabbè, chi come, ci vuole un certo fisico, cioè se uno non ha frequentato i più brutti festival di cinema come ho fatto io, Michele Salvezza, Michela, insomma, non puoi pensare che ci sia la roba brutta, proprio brutta, e questo comunque secondo me vince a mani basse la bruttezza delle bruttezze. Marco, un giudizio io finale, ho due considerazioni due addirittura, veloce, una praticamente ti che metto la musichetta, arriva... no ti piace, no. La prima considerazione è che se fino a sabato sera, diciamo, il nostro metro di giudizio cinematografico era diciamo da 2001 Odissea nello spazio, per comunque il capolavoro, insomma, per la cosa, e dall'altra parte c'era In the Market, sì. Adesso non c'è più In the Market. No, In the Market è molto più sincero, In the Market, sì, molto più onesto. C'è più, cioè, perlomeno una trama di merda, ma c'è, riesce a capire. No, lì allora In the Market c'è una trama con una coerenza, male. Ce l'ha brutta registicamente, pessimo, con delle inquadrature insensate, però voglio dire, è un film, cioè a me è un film che mi fa schifo, che è fatto male, brutto, però è un film, cioè, capito? E quindi ovviamente c'è una linearità, però una linea temporale, essendo stato scavalcato, cioè In the Market, però a questo punto poi alla fine ci rimette pure, perché essendo scavalcato nella bruttezza da Creator the non Past non vale più un cazzo, esatto, non c'è più nessun motivo per ricordarlo In the Market, capito? Cioè svanisce così, diventa vapore proprio, e questo è un po' tutto vapore di merda e di sangue anche, esatto. Sangue. Invece la considerazione finale è che noi, vabbè, parliamo, ridiamo, pensiamo che questo sia un brutto film, ed è un brutto film. Ma se lo prendiamo invece come viaggio onirico, cioè voi immaginate voi stessi che vi mangiate tipo 1,5 kg, 2 di peperonata la sera, e lo accompagnate da 1,5 litri di vinaccio di merda, vi buttate subito a letto e fate un sogno. Ed è esattamente così che sarebbe, con le dissolvenze, con le cose senza senso, con la trama che non si capisce che cazzo sta succedendo, con i bambini che bevono lo squirt, con i personaggi che entrano dentro un videogioco, che muoiono, che bevono sangue, con le, cioè, è così, ragazzi, cioè, sarebbe un sogno praticamente creato da una cattiva digestione, e io me lo vedo proprio così. Secondo me sarebbe proprio così. Questo è un brutto sogno. Allora, però scusate, devo riportare un dato statistico, perché anche in chat Lobby dice in The Market è a metà, tanto che Creatures ha portato giù la scala. Però io devo dire un dato ufficiale: IMDb, Internet Movie Database, in The Market con 329 valutazioni totali prende un 2,2 su 10, mentre Creators, ovviamente senza dubbio anche foraggiato dal pubblico di complottisti che si merita, con 238 valutazioni prende 4,6 su 10, quindi doppia abbondantemente. Vabbè, però lì lo sai che è influenzato dal fatto che comunque c'è gente che avrebbe votato a prescindere ideologicamente, anche perché noi abbiamo letto dei commenti sul film, capolavoro, mi sono emozionato, ho pianto, finalmente la verità, sai, tutte queste cose anche così. Anche noi, no? Abbiamo pianto, che c'entra? Esatto, infatti. No, poi tra l'altro, mentre Gualdi diceva una cosa, mi era venuto in mente una chiusa, ma poi me la so pure dimenticata. Comunque, ragazzi, cioè, io... Ah, ecco, sì, no, non c'entra niente, però ho visto che in realtà su Amazon Prime, se volete... c'è la possibilità, oltre ai voti, il voto quello di MBD, come si chiama, c'è anche la possibilità di mettere le stelle, le stelline, cioè tu come utente lo puoi fare, puoi votare il film, quindi andate e mettete tutti una stella e sotto il commento scrivete capolavoro, così almeno diamo questo disorientamento come succede spesso, insomma, nel coso. Comunque sembrano le recensioni che fa, che legge Gualdi. Esatto. L'idea, insomma, dovesse quella. Vabbè, ragazzi, io ci abbiamo scherzato sopra, tutto sommato gli abbiamo dato anche tanto spazio, però era tanto che desideravamo vederlo, l'abbiamo visto, ecco, adesso basta, adesso insomma da lunedì prossimo torneremo con OGM nella sua versione più nuda e cruda, che forse è anche meglio. Ci serviva un po' di pausa per riprenderci, esatto, dovevamo, è stato pesante. Non eravamo pronti, infatti avete visto, abbiamo spostato un giorno perché il trauma è stato importante. E film veramente brutto, e che non lo so, non c'ho altro da dire. Saluto tutti, va, che forse è meglio, perché questa puntata ha fatto il suo dovere. Quindi saluto e ringrazio Marco Gualdi. Ci vediamo la settimana prossima, speriamo di esserci dimenticati tutti. Sì, se c'è un metodo o qualche medicinale post ipnotico, dovremmo prendere, avvisateci, che dovremmo prendere la droga dello stupro mentre vediamo. Probabilmente sarebbe stato meglio. Carmine Puccio Console, mi raccomando, se prendete la droga dello stupro state lontani dal dottor Robinson. Ecco, a posto, salutiamo consiglio generale di salute Walter Sbano. Buonanotte, niente, ho la retina bruciata. Ciao. E il cervello anche. E è stato con noi anche Francesco Lobby Frontali di Muro. Ci vediamo lunedì prossimo con OGM Soch Media Edition. Tra l'altro adesso vi posterò in chat la foto della prima felpa ufficiale regalata e come premio, perché aveva azzeccato la sigla, non è vero? Era un regalo di compleanno. Quindi insomma, ricordatevi, potete andare sul negozio Oplix e comprare la meravigliosa felpa di OGM, che oggettivamente costa un fottio, però insomma questi sono tempi strani. Ma questa sera non ne ho voluto parlare di questa cosa, ne parleremo prossimamente nelle prossime puntate, perché ricordatevi sempre che noi come Runtime oramai è un decennio che andiamo avanti e insomma vi volevamo bene a tutti, però Spreaker merda.